fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siete sempre in collegamento con Resto Radio Convento, la web radio del convento di Ronato del Garda. Riproponiamo un, come dire, un must che sta andando molto questa sera, cioè gli amici o comunque i partecipanti a una festa che fanno gli auguri per il loro sposo in questo caso, o più in generale per il loro protagonista. Ci piace sempre ci piace questa formula di parlare di qualcuno tramite le voci di chi lo conosce bene o di chi la conosce bene, chiaramente dipende da sposa o sposo, festeggiato o festeggiata. In questo caso parliamo di un futuro sposo e dei suoi amici che sono venuti qui a salutarlo e a raccontarci qualcosa di lui. Benvenuti ragazzi. Ciao, grazie mille, siamo Lorenzo, Davide e Andrea, veniamo da Lodi. Un grazie a Stefano per questa bellissima serata, lo ringraziamo e un in bocca al lupo per il suo matrimonio, che parteciperemo anche noi con molto entusiasmo. Lascio la parola a Lorenzo. Ciao a tutti, sono contento della serata che abbiamo fatto. Beh, inutile chiedervi cosa siete perché lo vedo dalle maglie. Allora, no, a tutti amici, c'era un fratello. È lui, vedi che c'è. Un fratello più piccolo. L'avevo notato il fratello da qualche parte, ce l'abbiamo qui. Che è la persona tra l'altro più felice di questo matrimonio, perché finalmente potrà avere la camera più grande. Che è l'unico motivo di conquista dei fratelli, esatto. Di gioia del matrimonio è ricevere la camera più grande. Niente, io sono contento della serata e vorrei proporlo di venire qua tutti a festeggiare e a provare questa emozione. No, oh, bello, bello, grazie. Non abbiamo chiesto il nome del protagonista. No, infatti, cos'è? Stefano, no, hai detto. Stefano. No, ma io non sono protagonista niente, io sono solo un, come dire, un aiutante in questo viaggio. E allora, Stefano, mi chiamo Nicola, comunque Master Nick per la radio. E dicevo, allora Stefano, vabbè, ma anche il fratello a questo punto, dai, sentiamo anche la voce del fratello, che mi sembra quello più quotato per raccontarcelo. Io sono molto contento per questa serata. Aspetta, come ti chiami? Andrea, che giovanissimo tra l'altro, quanti anni hai? Ho 20 anni. 20 anni, e Stefano quanti ne ha? Stefano ne ha 32. 32, vedi che è anche preparato sull'età. Quindi è un ora. Ok, vai, dici. Sono molto contento di questa festa, chiamiamola festa, per mio fratello, e spero il meglio per lui. Quando si sposeranno? Si sposerà il 29 giugno. No, quindi a brevissimo. Come lo vedi? Pronto, agitato, convinto? Convinto e allo stesso tempo però anche agitato. Però è pronto. Molto tifoso del Brescia, eh? Sì? Siamo... Cioè da Lodi tifoso del Brescia? Sì. Pensa a destra. Strana questa cosa. E si conoscono da tanto? Sì. Lui e lei? Sì, da 9 anni. Quindi insomma diciamo è un passo... che si può fare. E già dopo, convivono, quindi ci siamo. Dopo 9 anni direi che è un passo logico. E come ci sono conosciuti? Dai, raccontateci un po', fateci partecipi di questa storia. Si sono conosciuti tramite... Si sposano magari al buio. caso, così. Chi si presenta me la sposo, speriamo vada bene. No. Si sono conosciuti, no, quindi ci sono bene. Conosciuti tramite amici. E lui non era molto convinto all'inizio. Ah sì? Lui sì. Lei invece sì? Lei sì, lei era convintissima. Pensa te, tutto ribaltato sta storia, veramente, tutto ribaltato. Di solito lei che parte con lui, invece no, lui che parte con lei. Loro sono prevenutissime, l'uomo è già broccola, già è distrutto dall'amore, invece è il contrario, ok? È il contrario, e poi si sono conosciuti bene, hanno cominciato ad uscire ed è iniziata la storia. Bene, sai per caso cosa l'ha convinto? Cosa l'ha convinto? Cioè, c'è un momento, c'è un qualcosa che l'ha convinto veramente? O semplicemente il tempo, la conoscenza, il passato tempo insieme? Esatto, sì. Ok. Voi li conoscete entrambi, immagino, sì? Sì, assolutamente. Confermate quindi che possono essere una Anzi, buona coppia. Un grande saluto, che sono a fare l'addio al nubilato a Milano. Anche loro, Marittima, ok. Quindi le salutiamo. Salutiamo. Dicevo, confermate che possono essere una coppia solida? Assolutamente, sì. Ok. Questo è importante, avere anche il supporto. Siamo fiduciosi, molto. Il supporto molto. E il parere degli altri. Voi amici di vecchia data o siete entrati nella sua vita da poco? Allora, io recente, da poco, quasi un annetto o due, però... buona amicizia. Avete legato sì, molto? Tramite le ragazze ci siamo conosciuti e... Ragazzi, ti so, fidanzate? Siamo fidanzati, ah, okay, con, okay, con amiche di... Di, okay, loro. Di loro, e quindi ci sta, sì, che sì, voi si crea. Anzi, portiamo un grande saluto. Si crea il gruppo, è giusto. Alle due, poi... Valentina. Se no, poi le sentite. Valentina, il mio cuore. Alessia. Ah, tutte Valentine. Beh, facile ricordarsi. Anche Alessia, no, le gambe, se no. Esatto, sì, esatto. Se no, poi domani le sentite, se non salutate. Ok. Anche Alessia, però Alessia è oltre. Ah, chi è Alessia? Aspetta. Ah, la tua ragazza, scusa, stavo perdendo i colpi. Alessia a Otranto. È comodo Otranto. Invece la larva, come si dice, la mia ragazza, che chiamo così come soprannome, sono a Milano Marittima. No, a festeggiare con la futura sposa. Esatto. Tra l'altro, insomma, mi piace sempre ricordare Otranto, che esiste veramente. E non è solo quella città con la O, che quando non sappiamo... Dimmi una parola con la O, Otranto. Esatto. Come quando fai... quando mandi le... Esatto, esatto. Che... Fai lo spelling delle città. Bravo, con la O esce sempre Otranto, e quindi esiste, tutti si chiedono... Tutti si chiedono se esiste davvero o se sia solo un modo per dare una mano, invece fisicamente è vero, esiste. E come te la sei trovata a Otranto in tutto questo? No, non è di Otranto, è in vacanza, okay, adesso, andate in vacanza. Ah, in vacanza, sì, in vacanza. Sì. Se no, insomma, era complicata, no? Abbastanza. Abbastanza, abbastanza. Beh, insomma, non sta malaccio, non penso che ci non sia. Non penso stia male. Non penso che si stia male lì. Esatto. Ok, volete mandare un messaggio a Stefano in chiusura? Volete dirgli qualcosa? Grazie mille a Ste, il rap con il suo soprannome, grazie del divertimento di stasera e ci vediamo al matrimonio. Ciao Ste. Grazie mille e spero il meglio, tutto il meglio per lui. E bene. Un grazie mille da Nicola, direttamente dal convento di Lonato. Grazie mille. Bene, bene, bene. Allora dai, ce lo auguriamo anche noi, ma siamo certi che andrà tutto alla grandissima e sarà veramente un bellissimo viaggio, una bellissima esperienza. E anche sicuramente una bellissima festa per voi, a cui parteciperete con tutto il vostro entusiasmo e tutto il vostro affetto che già traspare dalle vostre parole, dalle vostre descrizioni. Grazie ragazzi e un caro saluto anche da parte nostra. Grazie a te, al vostro Stefano. Ciao! Ciao, ciao.